Radio 24 Reportage. Matti da slegare, di Valentina Furlanetto. A Castiglione delle Stiviere, uno dei 6 ospedali psichiatrici giudiziari in Italia, piove e fa freddo. La primavera è lontana, si è allontanata di altri 12 mesi per gli ospiti della struttura. Per questa, come per gli altri 5 OPG in Italia, era prevista la chiusura il 31 marzo 2013. Ma all'ultimo minuto, visto che chiuderli senza sapere dove mettere i 1000 pazienti ospitati sarebbe stato sì da matti, è stata decisa una proroga di un anno. Si scrive ospedali psichiatrici giudiziari, si legge manicomi criminali. Vi finisce chi commette un crimine in condizioni di accertata malattia mentale. Una vergogna, ha detto anche il presidente Napolitano. Se n'è occupata la commissione parlamentare del Senato, presieduta dall'ex ministro Ignazio Marino. Chi ha lo stomaco per vedere il video su internet si può rendere conto dello squallore e della miseria che rappresentano Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Montelupo Fiorentino, Napoli, Reggio Emilia. Stanze sporche, bagni che sono latrine, inferriate, pazienti intontiti dai farmaci che fumano e urlano e sono legati ai letti. Mi hanno chiuso qua dentro a morire, giustizia! Giustizia! Se potete aiutarci a sgombrare da questo posto, perché io personalmente non ce la faccio più, con questo è tutto. Signore del Senato, fatemi giustizia, fatemi uscire qua, portatemi alla televisione. Non me merito tutto questo, non me merito. Un momento tutto questo, non papà, un momento. Papà, vieni a salvare, papà. Papà, vieni a salvare, papà. La mezza porca, senta, vieni a salvare, papà. Vieni a salvare, papà. Qui c'è sta animale. E la promiscuità, le osservazioni che si prolungano a 9 mesi. Allora, io sono qui, ho avuto 2 anni e sono chiuso da 10 anni. Mi hanno dato anche delle sostanze sbagliate che mi hanno fatto che ho gli occhi brutti. Io da bambino, la fotografia, mi prendete la fotografia, ero un bambino normale. Sono chiuso a 10 anni che ho avuto 2 anni. No, che reato, quale reato è finito qua dentro? Non ha fatto reato. Castiglione è un'altra cosa. A Castiglione la sola barriera tra i pazienti e la libertà sono le alte cancellate di recinzione. Niente sbarre, niente sbirri, niente divise, niente odore di urina e fumo che impregna i muri delle altre strutture. Alcuni pazienti passeggiano lungo i corridoi, lungo i viali bagnati, altri se ne stanno rannicchiati su una sedia, la tristezza è palpabile, ma c'è anche chi gioca ping pong, chi lavora a maglia, come spiega il responsabile della riabilitazione Gianfranco Rivellini. Attività di laboratorio per tenere vivo insomma le abilità lavorative dall'artigianato sul legno al decoupage alla sartoria a vari laboratori. Sono quelle classiche attività artigianali dove si muovono le mani e si muove il corpo che ha anche un'intrinseca capacità terapeutica, cioè il loro prodotto finale lo vedono e si riconoscono nel loro sforzo e quindi capiscono anche che tutto sommato se si impegnano e gli si dà la possibilità raggiungono degli obiettivi, perché uno degli aspetti fondamentali delle persone che poi fanno reati è anche una profonda sfiducia in se stessi. I malati di mente che arrivano da altre strutture qui fanno più fatica, a partire dal rispetto delle regole. Ti devi lavare, non puoi dormire tutto il pomeriggio, non puoi fumare più di 30 sigarette al giorno, ti devi curare. Oltre a psichiatri e infermieri, a Castiglione lavorano anche gli educatori. C'è qui un bar all'interno dell'OPG, quindi loro hanno accesso al bar, comprano il caffè, le sigarette, queste cose. Escono comunque una volta al mese, hanno la possibilità di uscire, di fare un'uscita con gli operatori, quindi anche l'uscita, anche questa va gestita. C'è tutta la parte appunto delle attività che sono interne qui all'OPG, adesso parte la piscina ad esempio d'estate, poi ci sono l'attività dell'atelier di pittura, c'è l'attività del giornalino, della lettura del quotidiano. La falegnameria e la sala cucito con le lunghe forbici te li devi conquistare. Come spiegano il direttore Ettore Straticò e Rivellini. 22 centimetri di forbice o 15 di taglierino sarebbero proibiti dal regolamento penitenziario, qui li facciamo usare. Questo però che cosa ci dice? Che quando andiamo a programmare le nuove residenze dobbiamo programmare diversi livelli di intensità di cure e di riabilitazione. Non a tutti puoi dare in mano 22 centimetri di forbice. O comunque non subito. Non subito. Quindi vede la complessità poi. Fatta la legge, la realizzazione è un pochino più complicata. Insomma. Negli OPG c'è Mario che ha insultato un vigile urbano, ma c'è anche Oleg che ha ucciso una donna a mani nude perché, disse ai carabinieri, si era trasformata in un diavolo. C'è Luca, conosciuto come il cannibale di Pineto, e diverse madri che hanno ucciso i loro figli. Il mondo là fuori è pronto ad accoglierli. Gli OPG sono difficilmente cancellabili con un colpo di penna e anche 12 mesi forse non saranno sufficienti, come crede il direttore Ettore Straticò. Fanciusi, detto questo, non si scherza. Ci vogliono i tempi giusti, ci vogliono i soldi giusti, ci vogliono le risorse umane giuste, ci vogliono operatori formati, giustamente, ci vuole consapevolezza del problema, ci vuole che i servizi si assumano anche parte di questo carico. Auspico che al rinnovarsi della proroga in tempi che consentano veramente di realizzare le nuove strutture, bene, possa essere stabilito già dalla legge che i nuovi ingressi vadano senz'altro nelle nuove strutture, ma per esempio chi fosse ancora dentro all'OPG non necessariamente deve essere immediatamente allocato altrove. Può esserci un periodo transitorio. La 180 ha previsto 3 anni di reingressi nelle vecchie strutture e anche lì, anche quella legge dichiarava chiusi gli ospedali psichiatrici. C'è stato un periodo di transizione che ha consentito che cosa? Che sorgessero i nuovi servizi. E quindi anche qui potrebbe esserci una qualche formula transitoria che non manda in tilt il sistema dei servizi esterni, ok? Mentre si invece dà attuazione alla legge prevedendo che i nuovi ingressi, per esempio dal 2015, quando siamo sicuri che allora sì, il fatto di non avere le nuove strutture sarà un fatto di irresponsabilità da condannare tout court, senza mezzi termini e senza mezze misure, ecco, a quel punto sì, i nuovi ingressi senz'altro non devono conoscere più gli OPG. In 3 anni il 93% dei pazienti di Castiglione è uscito, ma il 23% di loro è rientrato nel triennio per altri reati. Quando questi pazienti escono, devono curarsi, ma 1 su 4 a un certo punto si rifiuta di farlo, come spiega Rivellini. Queste persone non hanno solo bisogno di cure, di buone cure, hanno bisogno anche di buone politiche sociali che dia loro delle chance. Sappiamo negli ultimi anni che c'è stata una forte contrazione di quello che sono, diciamo, gli investimenti sul welfare, quindi sugli aspetti sociali. Poi rischi che la persona dice sì, mi curo, ma se non ho un minimo di reddito di cittadinanza, se non ho una casa, se non ho questo, se non ho quest'altro, andate tutti al diavolo, non siete credibili, prende, va fuori, si fa una mega bevuta. E se la fa una volta, ok, passa. Se la fa 2 volte e poi addirittura prende il treno e te lo trovi a Roma, il magistrato dice guarda, non mi dà più affidamento e te lo rimanda in misura di sicurezza detentiva, insomma. La primavera a Castiglione, come negli altri 5 OPG d'Italia, è stata rinviata di 1 anno. I rischi nel frattempo sono molti, che il tempo passi e non si metta in atto tutta quella procedura che dovrebbe portare le strutture territoriali ad essere pronte ad accogliere queste persone. I rischi sono molti, che si arrivi a mini OPG diversi nella forma ma non nella sostanza, che la gestione sia affidata ai privati, che il magistrato decida che le strutture territoriali non sono adatte e quindi mandi queste persone direttamente in carcere. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.